quale sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci qui, rieccoci dopo un rieccoci, un io non so se pausa. Ti hanno sentito i nostri amici. Probabilmente ok. Allora, un po' di imprevisti che ci piace anche così. Rieccoci quindi sui colori dell'anima. Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori. Siamo in diretta dalla Maison de Culture de Saint-Gilles e questa è la puntata del 14.04.14. Una puntata piena di quattro, come quattro sono le persone dalle quali io sono circondata questa sera. Perché ci sono io, Tiziana, Leandro. Ciao e a tutti. Regia come al solito. E poi abbiamo un ospite molto speciale. Sì, un ospite che presenteremo a brevissimo. Ma veramente non solo lui. Questo oggi abbiamo due ospiti speciali, ragazzi. Oggi uno proprio presente in anima e corpo e l'altro via etere. In anima pure. Non ci manca niente a noi. Allora, vi ricordiamo i numeri per contattarci, perché lo sapete, noi aspettiamo solo i vostri spunti, le vostre riflessioni, i vostri commenti, saluti. Allora, al telefono 02 345 2656, oppure fatevi sentire sulla pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro Oneir, e oppure mandate ancora un SMS al cellulare di Leandro, che 0486 94 11 29 0486 94 11 29. Grazie Leandro, adesso puoi spegnere le luci rosse. Dunque ragazzi, volevo lanciare un contest io questa sera, Tiziana, perché ho notato che sulla nostra pagina Facebook abbiamo 97 mi piace. Che non è un male. Non è male, assolutamente. Che, ecco, noi abbiamo cominciato soltanto a settembre. Siamo freschi freschi. Io direi che la centesima persona che metterà il mi piace vince un premio straordinario. Bello, mi piace questo contest. Quindi il premio verrà svelato nella serata, piano piano, però diciamo che sarà un'esperienza enogastronomica che verrà offerta al centesimo mi piace sulla pagina Rossella, Tiziano e Leandro On Air. E visto che parlate con tre siciliani, mi piace, va. No, la tua no. Allora, cominciamo a entrare nel tema della serata molto molto velocemente, perché abbiamo tanto da dire, quindi non bisogna perdere tempo. Oggi si parla di felicità, un tema che penso stia a cuore a tutti. C'è molto da dire, allo stesso tempo tema quasi banale, ma non troppo. Ne parleremo con questi due ospiti molto particolari, specialissimi, che hanno entrambi preso a cuore questo tema per versi diversi, ma ne parleremo tra pochissimo, perché prima vogliamo lanciare il tema grazie a una canzone famosissima degli anni 80. Attenzione, 82, Tiziana, l'anno di nascita mio, quindi dobbiamo sottolinearlo. Quindi dobbiamo sottolinearlo. Una buona annata. Canzone che ha spopolato, famosissima, tutti gli italiani penso che la conoscono, anche tu che sei nata in quell'anno. Eccetto, io sono nata con quella, era in sottofondo quando mamma era in sala parto. Quando mamma era in sala parto cantavano felicità e un bicchiere di vino. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Siamo ai Colori dell'Anima. Oggi parliamo di felicità con Rossella, Leandro e due importanti ospiti che presenteremo immediatamente. Abbiamo appena ascoltato la canzone famosissima di Sappiamo che tutti eravate a casa canticchiando. Albano e Romina Power ci hanno accompagnato nella nostra giovinezza, diciamo, nella nostra, forse anche prima. Alcuni. Nel nostro passato, sì. Allora, innanzitutto salutiamo tutti gli amici che sono su Facebook e cominciano già a farsi sentire e interagire con noi. Salutiamo Carla, salutiamo tutti i ragazzi della corale che ci supportano sempre. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao a tutti, ciao a tutti! Ed ecco, quindi tornando invece al tema di cui parliamo questa sera, parliamo appunto di felicità. E abbiamo con noi in studio un ospite molto particolare, Jasper Bergink. Jasper, buonasera. Buonasera. Buonasera. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo benissimo, forte e chiaro. Benissimo. Spero di aver pronunciato bene il tuo nome, ma boh. È una cosa olandese, non è, cioè, da, boh. Per essere difficile, per questo. No, ci piacciono le cose difficili. E allora Jasper è praticamente, io ti presenterei come un curioso della felicità. Un appassionato della felicità. Esattamente, sì. Per me la felicità è una cosa che cerco di capire. Mm-hmm. Jasper, diciamo subito ai nostri radioascoltatori che tu hai un blog molto da qualche mese, anzi veramente da quasi un anno, che si chiama For a State of Happiness, quindi per uno stato di felicità. In questo blog praticamente tu metti degli articoli, rifletti sul senso della felicità, spronando la gente forse anche a chiedersi, a interrogarsi sulla felicità. Sì, esattamente, sì, è questa la cosa. Per me è un modo per capire meglio come funziona la felicità, perché io credo che tutti vogliamo essere felici o diventare felici, e stranamente in scuola ti insegnano la capitale dell'Olanda, ma non ti insegnano come essere felici. Per questa ragione ho deciso di trovarmelo un po' me stesso, di scrivere questi piccoli articoli ogni settimana che insegnano una piccola cosa sulla felicità per capire meglio cos'è. Bene, ecco, come ti è venuto questo spunto? L'avresti sempre voluto fare? Come hai deciso? È un'idea che ti è venuta così, dalla notte al giorno? Beh, praticamente ho cominciato questo progetto quando ho sentito di un concetto, la felicità interna lorda che usano in Bhutan, del quale spero avere la possibilità di parlare un po' dopo. Volentieri. E io l'ho trovato un concetto molto interessante. Se c'è qualcosa che lo Stato, la società può fare per essere felice, così ho deciso con una mia amica di scrivere un libro. Ci siamo resi conti che scrivere un libro è abbastanza difficile, e poi abbiamo pensato invece di fare un blog con l'idea: se fai un blog ogni settimana devi scrivere qualcosa e ce l'hai più pressione, più motivazione, e se fai questo per 2 anni poi premi stampa e quello che stampa più o meno è un libro. Questo è il concetto. Bella l'idea. Jasper, dici il titolo, dacci l'indirizzo gentilmente del tuo blog, così subito chi ascolta può andare a curiosare nel frattempo che parliamo. Sì, allora si chiama For a State of Happiness, quindi l'indirizzo è www.forastateofhappiness.com, e in italiano sarebbe per uno stato di felicità. È l'idea di cercare come noi possiamo entrare uno stato di felicità personale, ma anche come il nostro stato può diventare un posto più felice. L'abbiamo subito postato sulla pagina, Jasper, così la gente può guardare un po'. Quindi tutti curiosi possono già iniziare a curiosare un po' mentre ci ascoltano. Senti Jasper, io ho dato un'occhiata al tuo sito e mi ha incuriosito questo articolo sul corso dell'economia della felicità che hai fatto a Londra. Hai voglia di raccontarci un po'? Sì, no, questa è stata una bellissima esperienza. Praticamente non era a Londra, ma era al sud-ovest dell'Inghilterra, in una piccola università. Ma non una università come queste dove abbiamo studiato noi, veramente in campagna, con la gente che abitava là, che faceva dei lavori sul terreno, che abitava là, quindi c'erano tantissime discussioni tutto il giorno, era una cosa molto personale. Abbiamo poi anche parlato del punto di vista economico, come dobbiamo usare le nostre risorse del pianeta, tutti questi discorsi. E essere fuori dal contesto normale del lavoro, di essere in un altro posto per una settimana e di avere la possibilità di riflettere su queste grandi domande, come cosa è la felicità, cosa voglio fare, è stata un'esperienza fantastica, è qualcosa che posso consigliare a tutti di andare fuori e di staccare la spina per un attimo. Esatto. Staccare con la routine quotidiana. Sì. E qual è la cosa che ti è rimasta più impressa, che ricordi ancora magari, non ogni giorno, ma diciamo la lezione forse un po' più che hai che ricordi con maggiore intensità da questa esperienza? Sì, no, è piuttosto il posto, perché mm-hmm. ero fuori la città, in campagna, un posto con una fattoria, con la foresta, c'era spazio, e lo spazio ha dato molto, è stato molto tranquillo, e questo è stato un grandissimo contrasto poi quando sono tornato a Londra, alla stazione di Waterloo, mi sono guardato intorno, ho visto tutta la gente che correva, mm-hmm. cioè era piena la stazione, e non ho capito, ma perché queste persone non si fermano, perché non guardano intorno, perché non vedono le piccole cose di felicità mm-hmm. che sono per tutto, mentre corrono per seguire chissà cosa. Jasper, quali sono i punti? Io so che tu hai individuato dei punti fondamentali perché una persona possa raggiungere la felicità, quindi dal punto di vista personale, individuale. Quali sono questi punti? Sì, parlaci un po'. Vogliamo tutti capire quali sono i segreti della felicità. Cioè, abbiamo la ricetta, Jasper. Cioè, il segreto è che non c'è un segreto. È qualcosa, secondo me, è quello che c'è, che la nostra intuizione ci dice, ci indica la direzione per trovarlo. Ma ci sono poi dei passi che si possono fare per avvicinarsi. C'è un'organizzazione inglese che si chiama il New Economics Foundation, che hanno fatto una ricerca, un progetto per il governo inglese, su 5 passi per il benessere. E queste sono 5 indicazioni, forse possiamo anche postarle dopo sul sito mm-hmm. Facebook, che possono dare un'idea delle cose che possiamo fare nella nostra vita quotidiana per avere l'esperienza di questi momenti felici. Per esempio, uno è di trovare la connessione, il collegamento con altre persone, di essere parte delle sì, cose. Fare una cena con amici, di che ne so, fare parte di un coro e cantare insieme. Per esempio, queste esperienze, questo legame con l'altra persona è uno di questi 5 passi per il benessere, mm-hmm. ma ce ne sono altri. Quindi un po' questo discorso della ricchezza delle relazioni umane, leggevo anche un po' in giro sulla felicità. Jasper, ma secondo te, no, una canzone che ti viene voglia di ascoltare quando continui a sentire questa parola felicità, qual è? Sì, beh, secondo me adesso c'è un inno della felicità, inno. Quella italiana l'abbiamo già sentito, ma poi c'è l'inno internazionale della felicità, che per me è Happy di Pharrell Williams. Adesso te la regaliamo. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Rieccoci in studio con il nostro amico Jasper, che ci è venuto a raccontare un po' sulla felicità. E abbiamo ascoltato questa bella canzone. Jasper, che ti fa pensare questa canzone? Perché ti vedo che beh, vuoi piuttosto, esprimerti. Piuttosto di pensare, questa canzone mi fa ballare, ma questa yeah. è un'altra cosa. No, cioè, è veramente l'inno globale, l'inno mondiale della felicità, ho detto, prima che abbiamo sentito la canzone. E abbiamo questo disco è uscito a settembre più o meno, e abbiamo visto adesso, se vai su YouTube vedi che ci sono c'è gente in tutte le città del mondo che hanno fatto la loro versione, hanno mostrato la propria città e hanno ballato nelle strade di Bruxelles, di Amsterdam, di di città in, in Africa, in Australia, su tutto il mondo. Quindi se vai su, su YouTube e se cerchi Happy, tipo noi siamo di Palermo o di Caltanissetta o di Genova, probabilmente trovi una versione, e questa è stata una cosa fantastica. È veramente stata adottata la canzone da, da tutta la, tutta la popolazione del mondo, che è una cosa fantastica, che ci siamo tutti connessi un po' tra la nostra passione per la musica. Eh sì, la musica poi aiuta, il tema della felicità con la musica vanno a braccetto. È una delle, infatti era una delle cose che ci dicevi, come credi nel fatto che la musica sia importante per dare, quel dare senso, spazio alle, sì, emozioni, per dare spazio alle emozioni, per, e quindi per aprirsi anche a delle emozioni belle. Senti Jasper, ma io ero un po' incuriosita se ci potevi elencare velocemente questi punti che ricordiamo per chi si è collegato adesso. Quindi ci ha detto che sono, diciamo, delle, delle chiavi di lettura un po', non è una ricetta perfetta, però sono degli spunti, delle piccole idee che ci permettono forse di avvicinarci un po' di più al concetto della felicità, che tra l'altro ci dicevi che sono stati diciamo concordati da un think tank inglese che si chiama New Economics Foundation, che io sono curiosa, quindi sono andata sul sito e mi è piaciuto molto il loro logo, il loro slogan, scusami, che diceva, dice: l'economia come se la gente, le persone contassero. Sì. Mi è veramente piaciuto, sì, molto, quindi la dice già lunga sul concetto. È interessante dietro, perché questo ha molto da fare con il posto in Inghilterra dove sono stato, questo Schumacher College, perché c'è anche stato questo Schumacher che ha fatto l'economia come se il pianeta contasse. E poi New Economics Foundation ha fatto questi progetti, abbiamo parlato già un po' su uno dicendo di questi cinque passi, sì, per il benessere, di connettersi con l'altra gente, ma ci sono ancora quattro altri indizi, diciamo, sì, altre cose che possiamo cercare di fare. E un molto importante è di essere consapevole, e questo ha un po' da fare con quello che dicevo della stazione di Waterloo, che guardarsi intorno, di essere consapevole di dove sei, di cosa senti, di cosa vedi. Spesso siamo tutti in fretta, ma quando ci quando siamo fuori per un po', guardiamo il sole, troviamo un momento di tranquillità, possiamo essere molto più felici. Spesso siamo troppo occupati, abbiamo troppe cose da fare e dimentichiamo di notare queste, questi momenti. Quindi questa è una seconda cosa, poi ci sono altre. Una cosa è di imparare, di continuare di imparare nuove cose, essere di fare, curiosi, essere di curiosi, sempre, di fare una scoperta, di leggere. Come fanno i bambini su, poi? Come fanno i bambini alla fine? Sì, sì, sì, infatti, secondo me essere un bambino, secondo, sì, no, ma questo è veramente importante. E per me questa scoperta della felicità anche è un modo per sentire questi momenti felici, anche se non è il mio obiettivo di essere felice cercando di capire la felicità. Il mio obiettivo era di fare una scoperta e di capire cosa sappiamo dalla nostra intuizione e anche dalla scienza sulla felicità. Il mio progetto è nato dalla curiosità, non è nato dall'obiettivo di essere felice, ma perché adesso capisco meglio come funzionano tutti questi effetti, sono riuscito a diventare più felice. È perché, molto complicato. Forse perché più che pensarla l'hai iniziata a vivere. Esattamente. Queste cose, sì, le hai, sì, iniziate un po', sì, a vivere, sì, sì. Sono dei, come diceva, esatto, Rosella, dei piccoli spunti che poi hai messo in pratica. E poi, sì, una e cosa, poi, la cosa va da sé. E poi per finire sui cinque passi, un'altra cosa importante è di essere attivo. Quindi di andare a correre, di fare sport, di usare il tuo corpo. Sì. Questo è molto importante. E un'altra cosa interessante trovo è di donare, di dare regali agli amici, di dare tempo agli amici e queste cose. Bene, ragazzi, se siete interessati andate a curiosare, perché veramente c'è da leggere su questo tema. Ma io volevo tornare un attimo invece al concetto che tu hai menzionato in apertura, la felicità interna lorda, perché è un concetto molto curioso, secondo me, che parlacene un po'. Allora, io ricordo i miei studi all'università quando ero giovane. Avevamo una professoressa di economia dello sviluppo molto progressista che, ecco, ci parlò che dopo averci spiegato il concetto del prodotto interno lordo, ci parlò anche degli altri indici di sviluppo umano e di progresso economico, e menzionò questo film e parlò di questo stato, il Bhutan, che io dissi: ma dove cavolo è questo Bhutan? Sì, forse dobbiamo cominciare infatti di indicare dov'è questo paese sconosciuto, il Shangri-La, il paradiso. Non ci sono ancora stato, quindi non posso dire se è un paradiso, ma è un paese nell'Himalaya che sta tra l'India e il Tibet. Sì. È un paese buddista, sì, quindi con la filosofia buddista. I buddisti sono molto più vicini alla loro terra che siamo noi nell'Occidente, e questo concetto l'hanno creato perché hanno visto che il modo di sviluppo nei paesi occidentali ha portato tante ricchezze, ma anche tanti rischi per il pianeta, e per questo hanno detto: beh, possiamo diventare più ricchi che sappiamo che possibili, ma è veramente la vita che vogliamo, di avere tanti soldi ma di perdere le nostre foreste, di poter comprare tutto ma di aver perso la cultura? E per questo hanno creato questo concetto, felicità interna lorda, che adesso l'hanno sviluppato in un tipo, un indice. Sì. Che sì, ci sono diversi indici, leggevo questo, sì, l'indice di sviluppo umano, che è stato anche utilizzato dalle Nazioni Unite, che tiene un po' in considerazione, sì, appunto, sì, il concetto della felicità interna lorda. Perché, appunto, spieghiamo brevemente, il punto è che qui solitamente la ricchezza di un paese è determinata dal PIL, quindi dal consumo, da quanto produciamo, da quanto acquistiamo, e quindi non viene considerato ad esempio i problemi di deforestazione, i problemi, insomma, tutto quello che produce, che fa girare l'economia per il PIL è ricchezza. Ecco, allora, le armi atomiche, le ambulanze, i funerali. Allora, ecco, non lo so, per parlare così in parole povere, è veramente questo il progresso umano? È proprio questo il progresso economico? Forse no. E quindi questo Bhutan si è lanciato e lo usa veramente come un indice. E tra l'altro, leggevo su Wikipedia, paradossalmente il Bhutan è uno tra i paesi più poveri dell'Asia, però in realtà uno dei più felici, a quanto pare, proprio in base a questo film. Sì, effettivamente leggevo anche che quali sono i criteri sui quali si basa, perché forse è curioso conoscerli, perché magari sono delle cose alle quali non pensiamo, perché noi siamo abituati allo spread, allo spill, allo sfell, a questo. Invece no, qui si parla di qualità dell'aria, salute dei cittadini, istruzione e ricchezza dei rapporti sociali. Quindi, ecco, un altro mondo, forse. Ecco, tutto questo si, sì, ricongiunge anche con quello di cui parlava Jasper prima. Non solo, ma questo si ricongiunge anche con quello che ci dice il nostro prossimo ospite, che praticamente è niente di meno che un poeta. Sì, e che praticamente ha scritto diverse canzoni, e in una di queste dice: cosa cercate? Cosa guardate? Cosa aspettate? Di che piangete? Di cosa ridete? Perché chiudere le finestre aspettando la pioggia che è stata annunciata e non credere al sole che vedete per aprirgli la porta di casa? Quindi, come diceva Jasper, avere consapevolezza ed essere l'uni, insomma, vicino agli altri. Sentiamola questa canzone che un po' ci introduce, ci presenta questo poeta, che è anche un cantautore, che si chiama Leopoldo. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori, ai colori dell'anima. Parliamo di felicità con Rossella, Leandro, Tiziana, che sono io. E oggi abbiamo come ospiti in studio Jasper, con cui abbiamo parlato fino ad ora, ed abbiamo appena sentito la canzone di un cantautore, poeta, regista, artista tuttofare, poliedrico, Leopoldo Verona, che dovrebbe essere in questo momento dall'Italia, dalla Sicilia, dalla bella Sicilia, in collegamento con noi. Leopoldo, ci sei? Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, come va? Sì, bene, io purtroppo ho un ritorno audio molto in ritardo, però cerco allontanarmi dall'auricolare per potervi ascoltare. Buonasera a tutti e grazie di tutto quello che state dicendo, e un complimento speciale a Jasper per quello che ha detto finora. Grazie. Allora, noi abbiamo subito notato che la tua canzone, ti do del tu, la tua canzone parla esattamente di quello di cui, dei temi che abbiamo trattato fino ad ora. Quindi intuisco già che tu sei pienamente d'accordo con quello che abbiamo detto. Ti viene voglia di aggiungere qualcosa? C'è stato qualcosa che in particolare ti ha colpito? Sì, sì, mi ha colpito tutto, però il concetto del feel è davvero strepitoso. E poi il fatto che il segreto della felicità è che non c'è un segreto, anche questo è davvero fondamentale. Ma soprattutto, a parte che aspettando e ascoltando la canzone Felicità mi ha colpito l'espressione che è una telefonata non aspettata, in questo caso era una telefonata aspettata. Infatti, può essere l'uno e l'altro. poi sentendo anche tutti i ritmi e tutto, ho pensato a quello che sento profondamente che possa essere uno dei punti, insomma, per vivere la felicità, è che è quello di sintonizzarsi col ritmo dell'universo, sintonizzarsi col ritmo delle cose, con tutto quello che ci capita, e naturalmente questo ritmo è dettato dagli incontri che facciamo. Mi ha colpito molto anche quello che sottolineava Jasper facendo la considerazione della fretta della gente, che è anche nostra molte volte, per le strade, alla stazione, andando, facendo. Mi ha fatto ricordare un personaggio che sicuramente Jasper conosce, Pierre Rabhi. Conosci Pierre Rabhi, Jasper? No. No, parlacene tu. Pierre Rabhi si può trovare su internet, basta cliccare Pierre Rabhi, B-H-I. Lo scriviamo subito sul blog. Un algerino il quale appunto tra le varie vicissitudini ha vissute che potete benissimo conoscere. Lui a un certo punto si è reso conto che si corre per in attesa di cosa? Attendendo la pensione, per poi morire. E il suo concetto, la sua espressione per me strepitosa è quella di dire: ma ci sarà pure una vita prima della morte. Dopo aver corso tanto, a un certo punto ci fermeremo e inizieremo a vivere. Ma appunto, ma lui dice: ma ci sarà pure prima. E per questo si è dedicato alla natura. E vedrete quando lo sentirete, conoscerete la sua esperienza e quello che sta facendo, quello che sta operando effettivamente, che è qualcosa di veramente molto importante. Si fonda tra l'altro su un concetto importante che è il concetto, più che concetto è, si collega ad una leggenda, la leggenda del colibrì. Non so se ne avete sentito parlare. No. Raccontaci un poco, sicuramente i nostri ascoltatori sono più che interessati a sentirla. Nel colibrì, a proposito appunto di cosa aspettare, di cosa cercare, di cosa fare, di cosa, perché non importa che tutto finisca, ma che si viva ora. E come dicevo prima, come cantavo prima, pare, dice la leggenda, che un giorno c'è stato un immenso incendio nella foresta e tutti gli animali, terrificati, atterriti, osservavano incapaci di far qualcosa di questo disastro. E c'era solo un piccolo colibrì che si dava da fare andando a cercare alcune gocce d'acqua nel suo piccolo becco per buttarle sul fuoco. Dopo un po' l'armadillo, che lo guardava, era un po' infastidito da questa sua ridicola azione, dice: ma colibrì, ma tu sei pazzo? Ma non è con queste poche gocce d'acqua che tu spegnerai il fuoco? E il colibrì gli risponde: ma sì, lo so bene, dice, ma io faccio la mia parte. Ed è molto interessante questo. La propria parte per vivere. Perché la felicità cos'è altro se non vivere? E questo vivere in sintonia con l'universo e con tutto quello che ci capita di capitarci. Leopoldo, grazie per queste parole, perché sono veramente molto interessanti. E in realtà, ecco, stavo pensando che sono molto in sintonia con quello che diceva Jasper poco fa, sì, sull'importanza di essere in connessione con la natura, di avere un contatto reale con la terra dove siamo. Contatto che spesso perdiamo nella fretta, in mezzo ai palazzi, facendo tante cose, correndo verso chissà dove, e invece appunto non riusciamo ad assaporarci questo adesso e non riusciamo a vivere forse questo rapporto con la terra. Sì, con la terra, ma c'è un primitivo rapporto che credo che Jasper sottolineava, che è questo di trovare il collegamento con altre persone, con qualcosa che ha a che fare con se stessi. Per questo mi viene in mente una, se vi va, insomma, vi leggo due parole. Cioè, sì, certo, fai. Noi si parla tanto di libertà, si pensa che, si crede, ed è vero, che nella libertà c'è quasi tutta la nostra lo sappiamo di quello, se facciamo un attimo pensiamo a quanta assenza di libertà ci sia nel mondo, tra tante persone nel mondo. E allora questa libertà per la quale si lotterà probabilmente. E allora io ho riflettuto su questo e mi è venuta, mettendo insieme in relazione libertà e felicità, mi sono venute alcune frasi, perché poesia non lo so, però comunque vi posso leggere un piccolo testo? Sì, dai, come no? L'ho intitolato Cristallo perché a mio parere presenta con questo titolo una limpidezza di concetto, e dice così: se vuoi felicità, non affannarti a cercarla dappertutto, ma fermati a prepararle un posto e aspettala, verrà. Quanto alla libertà, se ancora non ti sei accorto di averla, tutta quella che ti serve, è inutile cercarla. Ecco. Ho lasciato questo momento di silenzio proprio per gustarci, per sentire l'eco delle parole che abbiamo sentito, che penso sia importante. Stiamo proprio parlando di silenzi, di spazi, quindi è importante anche quell'attimo di silenzio. Io penso che anche è venuto il momento per conoscere anche il nostro poeta, mandando una canzone che forse lo denota ancora di più. E quindi praticamente lancio subito un'altra canzone che lui ha scritto, virgole, tratta da un recital di canto e poesia, Nuvole e Sassi, e ve la lancio subito. Vai. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci qua, cari amici, eccoci qua di nuovo, noi dei Colori dell'Anima, di Rossella Tiziana Leandro. Abbiamo ascoltato finora un'altra poesia, canzone di Leopoldo Verona. E abbiamo detto la musica è una delle vie principali per arrivare alla felicità, quindi ci fa un attimino piacere anche fare un po' di pubblicità per un nostro carissimo amico che è musicista qua, che conoscete tutti ovviamente, Angelo Gregorio, e che farà dei concerti qua a Bruxelles, e lo troviamo martedì 13 maggio, dove New Emil Max 153, e mercoledì 14 maggio a Route de Renipon 70 e a Rue de la Tulipe 28 a Excel il giorno dopo, e il sabato 17 maggio a Rue Hot 7. Però vi invitiamo anche a guardare le date su www.angelogregorio.com. E anche il nostro carissimo amico poeta Leopoldo ha anche lui un sito www.leopoldoverona.com, dove è possibile ovviamente insomma anche contattarlo, oppure insomma vedere alcune delle sue opere. Ed eccoci qua, Leopoldo, ci senti? Sì, vi sento benissimo. Che bello che ci sia questa possibilità di dare informazioni su. Sì, peccato che sei in Italia, sennò ci andremo insieme ai concerti. Bene, aspettiamo, ti aspettiamo qui. Quando vuoi, vieni, ti accogliamo a braccia aperte. Grazie. Allora, io volevo innanzitutto volevo fare innanzitutto volevo lanciare volevo salutare gli Salutare un po' gli amici di Facebook. C'è Cecilia Longo che dice qualcosa, ma io non sono capace di leggere questo commento. Io devo farmi un corso di tecnologia avanzata, oltre a quello di felicità avanzata, di sicuro. E salutiamo anche Giuseppe Riggio e Marco Gambino. Ciao a tutti, ragazzi. E volevo dirvi che siamo arrivati a 98, quindi mancano solo due, e dai, e che dobbiamo fare? Non siamo riusciti a vincere sto contest, nessuno è riuscito a chiudere sto contest entro la serata. Avete ancora 3 minuti, tutto è possibile, vai. Nel frattempo noi chiediamo a Jasper che cosa ne pensa di quello che abbiamo detto, cosa ne pensa di quello che ha detto Leopoldo, se ha qualche intervento da fare, qualche osservazione. Sì, mi hanno colpito molto le tue parole, Leopoldo. Ho fatto degli appunti e ci sarebbero tantissime cose che potrei dire, ma non lo farò. E quello che principale è quello che ha detto, che si vive ora. E questo, secondo me, è importantissimo per la felicità. Probabilmente è la prima legge della felicità, è capire che si vive ora. Spesso pensiamo di vivere per il futuro, pensiamo se abbiamo questa macchina bellissima, se solo questa ragazza fantastica sia in amore di me, se questo succede sono felice. Beh, forse è così, ma è molto più importante di vivere la felicità ora. Ora, in questo momento. Hai ragione. Vorrei aggiungere qualcosa, Jasper, non so se condividi. Questo ora è ancora più bello se è condiviso, perché non so se mi spiego, se è condiviso, se c'è una reciprocità in questo ora. Perché molto spesso si vive nell'idea del sacrificio di sé per qualcosa che appunto dovrà succedere, che non succede mai, però è molto bello quando, non solo è molto bello, ma è strepitoso, e credo che sia, lasciatemi usare una parola a cui sono molto legato, credo che sia una grazia nel senso greco del termine, io lo sono di origine greco, una charis, una grazia, quella di poter vivere, convivere, anzi a me piace usare l'espressione condividere con qualcuno, un'emozione, sì, un'esperienza, anche un dolore, ma condividere. È fantastico, cioè, è veramente, sì, è per questo che abbiamo un poeta nella trasmissione. Io sono un semplice blogger, non riesco a esprimermi nello stesso modo, ma questa condividere è la parola che infatti posso, sì. vi richiamo ad un concetto dei latini che dicevano al loro imperatore: tu puoi decidere della vita delle persone, ma non della vita della parola. La sapevate questa? È vero, non lo sapevamo. No, stasera tanti appunti, stiamo imparando, stiamo prendendo appunti, non sappiamo più dove scrivere. Io direi che veramente sulle pareti, scriviamo da ovunque. Io direi che cuore, e poi cancellare e poi dimenticare, e poi vivere attimo per attimo. Ma senti Leopoldo, ma a proposito appunto di queste gocce, abbiamo parlato della goccia del colibrì, però tu hai anche una ricetta, no? Una ricetta particolare, ce la vorresti raccontarci, vorresti dire prima di chiudere? Ce la facciamo? Prima di chiudere, abbiamo dai. un minuto, spero. Allora, sì, so che voi la conoscete, qualcuno di voi la conosce. Allora, la ricetta potrebbe essere questa. Dunque, raccogli in un vasetto tutta la fretta del giorno, metti in un barattolino lo sforzo di ogni mattino. Poi taglia il tempo a pezzetti, prendine due o tre cubetti, scegli un vassoio capiente, ungilo con fantasia e versa dentro abbondante chiasso e disarmonia. Mescola bene l'insieme con un'idea di speranza, versando di tanto in tanto della bollente pazienza. A parte in un pentolino, scongela tutto il rancore e lascia un po' a macerare in acqua calda e vino, sai poi evaporare cuocendo a bagnomaria. Prendi una grossa scodella, mettici gocce di boria, aggiungi qualche storiella con una foglia di storia. Il tutto metti in padella, fanne frittelle di gioia. Servire calde.